sentito, buongiorno Salvatore. Ciao Salvatore, ben sentito, Barone, credo che sia a casa, sto aspettando che rientrino le quote restanti della famiglia. Beh, ditemi conta già. Come mi senti? Io ho finito di sistemare finalmente l'antenna. Secondo me, oggi ti sento bene bene. Ho sistemato l'antenna, l'accordatore da palo adesso finalmente sta andando come doveva andare. Ho aggiunto un'altra ralla all'antenna perché l'ho sollevata di altri 2 metri, gli ho aggiunto un mast di 2 metri e quindi ora è anche più alta e in sostanza mi permette di avere finalmente un po' più di distanza dal piano di massa, cosa che prima non aveva. E poi ho aggiunto quelle che sono, mancavano alcuni radiali che ho aggiunti come sempre per la massa, e quindi adesso dovrebbe essere completa. In effetti non sento nessuno urlare, perfetta la modulazione, sento benissimo adesso. Scappa. E tu? Stai uscendo sempre nella solita maniera. Alternative? Alternative lì, ma sto uscendo sempre nella solita maniera, finché non lo fai a Marcello. Scappa. Accidenti. Accidenti. Comunque io ti sento sempre benissimo perché siamo molto molto vicini, chiaramente. Peccato che non riesci a farti sentire in altrettanta maniera anche dagli altri, perché sei proprio in un buco, sei diavolo. Così. Se avessi avuto la possibilità di salire sul tetto, certo non avrei messo questa l'antenna, anche se mettendo questa sei riuscito a mettere lo stesso, perché è una mezz'onda e quindi sei riuscito bene ugualmente. Se avessi purtroppo la possibilità di metterla sul tetto non c'è. Cappa, maledetto. Oh, non pensare che per me siano state rose e fiori, questa settimana sono dovuto uscire dall'ufficio un attimo perché c'era l'amministratrice condominiale che aveva ricevuto delle lamentele perché mi avevano visto fare dei lavori sul tetto, eccetera, eccetera, eccetera, insomma, tant'è, sono andato e gli ho portato la patente di radioamatore, gli ho spiegato esattamente come erano tutte quante le storie e quindi la cosa si è concluta. L'importante è che tu non disturbi e non fai danno sul tetto. E tu pensa per assurdo che io sono l'unico che ha messo tutte le antenne, quindi sia l'antenna satellitare che le antenne per trasmettere sulla parte condominiale. Gli altri hanno messo tutte quante le antenne lungo i parapetti, li hanno legionati, con il fatto che comunque quelli sono tutti quanti lattrici di proprietà. E nessuno di quelli che l'ha messo, tranne una persona, è realmente proprietario. Dimmi tu adesso. Siamo in Italia. E sai le cose che uno fa e l'ho fatto perché tanto l'ha fatto quell'altro. E così via. E ognuno fa riferimento a un precedente già fatto da un'altra persona, senza porsi il problema se era sbagliato oppure no. E quindi niente, adesso con tutto il lavoro che ho fatto, ho steso anche un cavidotto da 25 mi sembra che sia, o da 30 o da 35, forse da 35 di diametro, per proteggere comunque tutti quanti i cavi che arrivano fino al Torino delle antenne. E ho detto, adesso approfittate del mio capitotto per metterci dentro le antenne e per sistemare un'antenna centralizzata, ma una, nel torrino condominiale, e togliamo via tutte quante queste antenne pericolanti che ci sono lungo il parapetto del palazzo. E infatti sai cosa stavo già pensando? Ho detto, ma c'è quello che è talmente tizio che ha appena finito di pagare l'installatore per sistemare l'antenna e molto probabilmente dirà, ma io la spesa l'ho già sostenuta e caspita, cosa non mi interessa? Farà un ragionamento del genere, ahimè, penso. L'importante è che ti sei sistemato tu, la diversa di cantare. Sì, no, ma infatti a me premeva prima di tutto mettere in sicurezza l'antenna e ho aggiunto gli altri tre tiranti, per cui adesso con due rande e sei tiranti quell'antenna sicuramente non va via da nessuna parte. L'altra c'ha tre capi d'acciaio e non andrà via ancora meno di tutti quest'altra. Mi interessava proteggere il più possibile i cavi, perché il sole, mamma mia, lì, quello dell'antenna satellitare l'aveva letteralmente contro. Cotto, la plastica era durissima, si è spaccata in mille pezzi, per cui ho sostituito anche tutti quanti i cavi satellitari. E ne ho approfittato per proteggerli il più possibile e li ho messi dentro un cavidotto. Lo stesso cavidotto è quello che ho messo a disposizione del condominio. Faremo una riunione, penso, entro breve, credo entro una ventina di giorni, e lo metto a disposizione e sto proponendo per trovare una soluzione a questa giungla di antenne che c'è, perché tu pensa che ad esempio riguardo alle antenne satellitari, tu pensa che c'era uno al quale l'antenna, l'illuminatore si era letteralmente sbriciolato dal tempo. Beh, lungi dal sostituire l'illuminatore, cosa hanno fatto? Hanno montato un'altra parabola a fianco a quell'altra, che non si sono neanche preoccupati di togliere, e l'ho tolta io. Pensa a che punto arriva la gente, cioè lungi dal fare anche una spesa di 6 euro, di 5 euro, ma chiaramente li tirano addosso gli illuminatori, hanno preferito far fare il lavoro completo di una nuova installazione. Perché non lo sanno, anche qui ci sono anche tecnici, bisogna che si vedranno, se vuole cambiare la parabola, lo avranno detto. È anche probabile, se sono andati quelli di Sky e loro hanno chiesto l'intervento di un tecnico perché non vedevano più Sky, quelli hanno fatto un figurone, gli hanno buttato un'altra parabola, la parabola era messa male. Oh, io, scusa che hanno suonato alla porta. Ok, rieccomi Natali, la mia figlia non aveva le chiavi. Aspetta che vuoi arrivi la 50 qua, così prepariamo qualcosa da mettere sotto i denti, che stasera devo andare a un posto. Deve andare? Devo andare a fare compagnia alla 50, a Saccarza, dobbiamo andare in Fulma, per rompimento di scatole. Ho capito, sembra di averlo letto, ma è un gruppo però. È tutto il gruppo della chiesa dove la mia 50 che fa la catechista lì, e quindi se volevo andare io andavo in macchina, mi piace andare, e mi posso andare in pullman. Eia, sì, sapevo. Doveva forse anche andare mia suocera, poi adesso a lei come inizia il bel tempo e il caldo preferisce il mare, e come biasimarla d'altronde. Sì, infatti, avrò via. Ma il clacchi che sto sentendo è dell'MC60? Penso di sì. Sì, cavolo, è inconfondibile, è proprio un attacco. Si sente quando io premo il... Io sto trasmettendo con il PTT a pedale. Si sente quando premo la portante? Qualche rumore strano? No, non sento niente, non sento. Cappa. Forse perché in realtà non si sta bloccando, non sta agganciando nessun contatto per tenerla costante la... Vai a pesca. Vabbè che è anche distante in realtà dal microfono. Quindi questo clac clac non si sente. Sì, a proposito di clac clac, mi è venuto in mente Claudio. Notizie? Sai come sta? Sta riprendendo? No, mi la verità non l'ho sentito, non ho sentito nessuno perché sto entrando anche qui, non me ne viene manco voglia di entrare a parlare qua, no? La verità, lo accendo adesso, mi così tanto per farlo scaldare, c'è un gatto per me, quindi mi ha tolto la portante, tiro sulle ginocchia qua, entra via Salvatore. Sono belli quanto infini come animali, porca miseria, guarda. Qui adesso è in calore, ecco, sta qui, bisogna stare attenti. Se no, lo sai che, come gli dico, saluta per la persona, lei fa miau e saluta veramente. Saluta il mio Salvatore, tu. Non immagino, ma ti sento mio madre, deve essere. Poverino. Lui, pomponio. Di tu gatti hai? Ah no, c'ho Scooby, ho già batto a Valda. Ciao, metti la discreta. E Scooby che cos'è? Presumo sia un cane, un nome di cane. Non ci va, vai. È detto un pucco. No, è un pinche lo chihuahua. Ma tu la subito chihuahua, per questo è un pinche stronzo come cane. Ho dato una dentata. E io mi ero trovato a ricacciare i denti, lui, tu. Si mi abbiamo sciogliato. E c'ha anche i baffi bianchi, perché adesso è diventato vecchietto. Fumbi tu. Allora, è salito qui adesso poco fa, è stato tutti i tre piani di scale da solo, è arrivato qua su, mi ha chiesto l'acqua, si è tutto quanto strusciato e poi adesso si è seduto nel divano. E guarda chi lo tocca adesso. Cioè, a momento adesso mi mussicheggia, capito? Non è che mi rifino molto. Avanti Salvatore. Perché è casa su più piani hai? C'è la casa di mamma al primo piano, io sono al terzo. Ho capito. Ma è un vostro condominio in pratica? No, abita nel condominio dove proprio, non è che sia il nostro condominio. Mamma abita, la c'è la casa al primo piano, con mio fratello e io abito all'ultimo. Ah, cappa, quindi è una condizione simile alla nostra. Qua noi siamo all'ultimo e al primo piano c'è mia suocera. Quindi, insomma, con altri, condividete con altri. Ma il cane se ne va in giro da solo per il condominio? Sì, il cane sta da solo. Non ci vediamo da che quando è la porta del fratello sta direttamente su, a casa mia. Se trova la porta chiusa, vai a prendere acqua, che sono arrivato. Bestiale, Gesù, di animali. Troppo solo. E poi cos'è, vecchiotto? Quanti anni ce ne hai? 7-8 anni? È una cosa del genere. C'è una nonna ventina adesso, ma perché loro, già lo sai, le fare fare la doppia. Eia, non sapevo che triplicava, no, la doppia. Sì, se non mi ricordo male così, la doppia, così la pari. 50 e non cosa riempiendo di dai quel X un attimo se no qua non ci capisco più nulla. D'accordo, comunque X allora. Eia, non c'è problema, Natalì, non c'è problema. Popo, che ti parte questa modulazione? Perfetta, è bella, 5. Un buon botte. Ecco, ho trovato adesso il giusto setup anche per la M. Praticamente sto usando lo stesso setup sia per AM che per banda laterale. Beh, vabbè, se esci per la M, va per banda laterale, se togli il processore, va benissimo. In banda. Oh, ma io sono senza processore qua, il processore non me lo permette di metterlo in AM. Come mai, strano? Così, è fatta così la radio, è nata così. Mentre sul 950 mi ha parlato che si può escludere, però penso che essendo uscita dopo come radio, il 950 rispetto a questo sia un po' più evoluta. No, ma il setup che ho io posso mettere il processore e anche disinserirlo tranquillamente, capite? Infatti quando vado in banda lo disinserisco, quando sono in AM oppure in FM è sempre inserito. Con che radio? Non è uguale alla mia? Il 80 della più muto c'ho io, uguale a 140, in più c'ho in pratica 50 MHz e basta. Ho capito, no, io sto modulando con l'FT1000MP. Ah, ho capito, io ho una cosa diversa. Sì, l'ho preso oramai sono qualche settimana che ce l'ho, 3 settimane, 3-4 settimane dovrei averlo, fatto una serie di setup, prove contro prove, rimaneva da ottimizzare l'antenna che l'ho sistemata tra ieri notte e stamattina, dico ieri notte perché ho iniziato alle 6:30, ho finito alle 10:30, sono sceso dal Torrino su dell'ascensore. Stamattina ho ricontrollato gli attacchi, ne ho cambiato uno che non mi piaceva e che l'ho sollevata di altri 2 metri il palo. Ora rosmetra bene, accorda bene, va bene, l'acquisto che ho fatto di queste cuffie con microfono incorporato andava settato l'equalizzatore e ora ho finito tutte le spese e ho finito il setup ottimale. Ma vabbè, se devo rumore sono andato in cucina, pensavo che si fa mandato le fettine di cane. Avrà detto, questo qua non ha capito che c'ho fame, aspetta che vado al sentiero. Siccome c'ha il vizio di ogni tanto di saltare le serie, qui non mi fido molto, capito? Ne ho messo un piatto adesso sopra, non so che saltare le fettine. Cappa, ma gliele cuoci, non gliele dai crude ovviamente, vero? No, gliele do proprio, siccome l'ho messa fuori la fettina, che l'avevo messo in ghiacciaia, quando ho lasciato un paio di robe fuori, non bene, se proprio cazzo si cucina direttamente, non sono avuto robe fuori oggi. Oggi c'è caldo, io sono sceso da una quasi un'oretta oramai, lassù dal Torrino, stavo finendo di controllare questi attacchi, ma c'è veramente caldo, tanto tanto caldo. Se me ne sono accorto, sono scelto un poco fa io, dal fresco di casa al caldo di fuori, stavo scendendo, sono salito veloce a casa, mi sono bagnato la testa con l'acqua. Sì, io ti credo, giornata di mare è questa. Oggi sì, oggi è la prima di sì. Questa è la casa mia al mare oggi, a via la Tintarella. sì. No, io non sono tanto pericoloso, perché a me il sole mi dà fastidio, anche perché mi aumenta la pressione oculare, mi dà fastidio. Per cui preferisco andare di sera, già insomma, dopo le 4, diciamo. Dopo le 4 posso andare a farmi il bagno e prendere il sole del pomeriggio. Sì, capito bene quello. Oppure la mattina presto bisogna andare. Verso le 8, alle 11 mezzogiorno, se di più te ne vai. E se intanto alla mezzogiorno non ci puoi neanche stare lì. O caldo che c'è, per carità. Via. Tu dove scendi? Giù a Platamona? Platamona per tutti ne vado. Capito? Io ho già messo con qualche cosa. E faccio un paio di volte il bagno e poi me ne salgo a prendermi il sole, capito? Veloce. Anche perché sono di pelle bianca, hai capito? La mia è proprio bianca e quindi lo stiamo subito. Ma chi lo dici, cannagione bianca? Sono latticino, sono, letteralmente. No, noi andiamo solitamente all'inizio, lì dove c'è lo stabilimento Lido Punta Bianca, proprio all'inizio, sulla famosa. La proposta è quello. Ah, voglia. Sì, perché c'è sempre indisposto il fatto di scendere con ombrelloni, piaggine, mille altre cose. Almeno lì trovi tutto, devi scendere solo con l'asciugamano e buonanotte. Vabbè, sono bello che ce l'ho io, che quella del bar, se ti serve, con la scritta algida, a voi che ci stai sotto. Ma perché tu non ho capito perché fai il riferimento dell'ombrellone algida, perché ti porti in spiaggia quello. Ce l'ho qua a casa, la verità, perché non l'ho regalato, e me l'ho detto anche in casa qua. Se è un viaggio sembra che sia un bar. Bellissimo. E non sei mai avvicinato a qualcuno che a chiederti qualche granita? No, ancora no. Una volta ho messo un amico di ombrelloni che vendevano, non vendevano, lui regalava la Lido, è arrivato a pare 4 mesi nemmeno, si è stato tutto in polvere. Allora un amico mio è venuto a me, prendi un ombrellone dal bar, ecco, dammelo, ma io pensavo che era piccolino l'apertura, cazzo, gli è poco anno io. Adesso la terrazza io potevo riscarlo, figurati, un bombone. Tutto operazione a braccia. Ho capito. Poi scusami un attimo, un attimo di bianco che devo parlare con mia moglie un attimo. Faccia, faccia. Rieccomi. Pompo, ci sei? Antonello, ci sei? Ma non sta girando il tubo. Ui, buongiorno, capito, sto girando il tubo, non si attacca l'altro. Ti sto sentendo pazzissimo. Dici. Diciamo qua a essere un passaggio oggi. Cappa, ti stavo sentendo pazzissimo. Come te mai? Ho capito. Ora sei in BM. No. A casa, il supermercato ce l'ho a casa, il BM no. BM, anzi, ne ho tolto tutto il BM, durante l'estate, non ho tolto tutto l'impianto, ho tolto tutto. Ma così, perché tanto no, non lo operavo più di tanto, ho tolto, ho montato tutto. Ah, ho capito. Ho preso l'antenna, quindi. Hai preso l'antenna per caso o per la vettura? No, dico, hai tolto tutto, compresa l'antenna. Positivo, ho compreso anche l'antenna, ho tolto anche l'antenna, ho messo l'antenna della radio che c'era prima delle 8. Ho capito. Ma anche a te è venuta un po' di crisi di trasmissione, hai perso un po' di stimoli. No, l'ho tolta, sai perché? distanza non è che addirittura non la rompono molto, perché va in cagno e poi per voi la piazza non è che la piccola è mezzo la portata di lo faccio già in cambio quando sono al lavoro e mi approfitto a passare a baracchina. Però in macchina la mattina andavo a piazzare alle 5 e poi mi entravo la sera, a volte neanche nel tempo a imparare, allora come va a finire adesso è sempre attaccato. Tra l'altro da qualche parte mi romperanno anche il vetro per togliere un microfono, cosa del genere, l'antenna, gira, e allora ne l'ho, tanto che se non la romperavo quasi niente, l'ho tolto, dai, me l'ho tolto, tolto un po' l'impianto, proprio perché avevo fatto un po' l'impianto, cioè, mi sono fatto un bel lineare sotto, perché, tolto tutto. Ho capito. Vabbè, oggi io ti saluto che è giunta l'ora di chiudere le trasmissioni, fare QRT e dedicarci ad altro qua in casa. Buon tutto e buona domenica allora. Io ora il dottore sempre al 100% ho così di passaggio a Cerno e niente, dai, non faccio il giro con la presunzione della parte. Ciao, sempre girato, non si sta K, ok, ciao Gigi.